Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Salgono i richiami e le imprecazioni dei più esagitati, che reclamano qualche centimetro di spazio per superarmi a destra e a sinistra. Ma soprattutto sale la consapevolezza che sono lì solo con le mie forze. E un'unica certezza: 27 chilometri all'arrivo. Una gara di karate nel 2011, ho preso 2 bronzi, cosa che ancora oggi nel mio gruppo è imbattuta. Nicolas. Ma ancora, ho finito una maratona, 42 chilometri ovviamente, 41 qualcosa, quando fino all'anno prima correvo a stento 2 chilometri. Daniele. Facevo il liceo, giochi della gioventù, per saltare un giorno di scuola mi iscrivo alla gara dei 100 metri, mai corso in vita mia, enorme soddisfazione nell'arrivare penultimo, c'era uno che era peggio di me. Mario, buongiorno a tutti, questa è Radio 24. Il programma è Voi siete qui, io sono Matteo Caccia e il numero di telefono per chiamare e raccontare qual è stata la gara più bella della vostra vita è 800240024. Oggi raccontiamo questo, oggi raccontiamo la storia di Giampaolo che purtroppo devo dire, essendo una delle ultime puntate che raccontiamo prima del live, considerato che il live è domani, devo dire c'è un piccolo fallimento pari quasi a quello della nazionale da parte di Margherita Hina, che non è riuscita a recuperare Giampaolo. Giampaolo, ti avevamo scritto a tutte le mail possibili. Margherita ha sguinzagliato i suoi investigatori privati, aveva scoperto dove abitavi, ti è appostata, ti ha pedinato, ma niente, non ti abbiamo trovato. Quindi oggi noi raccontiamo la tua storia senza di te e senza la tua voce, ma con la voce degli ascoltatori. 800240024 è il numero di telefono da comporre, che è sempre quello, lo era per prima per Carlo Genta, che ringrazio come al solito per i 15 gradi che mi fa sempre trovare in studio e per la raucedine che mi farà venire da qui ad agosto. Il numero, vi dicevo, è sempre quello lì, 800240024. Valgono tutte le gare, valgono gare di chi ha mangiato più torte, come in, cos'era, Stand By Me, no? Il ragazzo che mangia la torta di mirtilli. Valgono le gare di bicicletta, come succede per Giampaolo. Valgono le gare di chi riesce a schiacciare più noci con la testa. Valgono le gare che si facevano lui alle scuole, ai giochi della gioventù fa i 100 metri. Come si chiamava quella che si facevano al mio... Le campestri, le corse campestri, in campagna. Io facevo i 6.000 metri. Qualsiasi gara, 800240024. La gara più bella della vostra vita... Dove non dovete per forza aver vinto, eh? Non si parla della vittoria più bella della vostra vita. Badate bene, la gara più bella della vostra vita. Vorremmo fare anche un piccolo... poi non parleremo più di calcio, perché c'è già chi lo fa molto meglio di noi e molto, in maniera molto più ampia di noi. Settimana prossima comincia questo mese, in onda a luglio, sarà la prima volta che saremo in onda a luglio con delle storie originali, cioè storie nuove, completamente mai lette, mai raccontate. La prima settimana saranno storie legate ai mondiali di calcio, storie ovviamente degli ascoltatori, quindi la loro vita legata ai mondiali di calcio. Non si parlerà di calcio, si parlerà della vita di quelle persone. Noi, dopo la partita di ieri, la redazione di Voi siete qui ha deciso che anche se settimana prossima racconteremo le storie dei mondiali di calcio, non parleremo più di calcio, solo le storie delle persone che hanno voglia di condividere la loro vita qui con noi. Voi siete qui, @radio24.it è sempre ovviamente l'indirizzo, mentre 800240024 è il numero da chiamare. Enzo, il mio primo torneo di tennis vinto nel 1983 è la gara più bella della mia vita, a 15 anni. Mio padre, nell'euforia del momento, mi disse: ti faccio frequentare la scuola di Nick Bollettieri. La scuola di Nick Bollettieri, scriverà la scuola di tennis che frequentò Andrea Agassi. E ancora, 1 giugno 2014, Paco scrive, cioè l'altro ieri praticamente, 3 settimane fa, Ironman 70.3 a Pescara, 1,9 km di nuoto, 90 di bici, 21 di corsa, 4 ore e 54 minuti. La cosa più bella è che da Bergamo i miei cari amici sono venuti a vedermi e mi hanno fatto uno splendido regalo, hanno trasformato una gara importante in un'esperienza indimenticabile. Ripeto, 800240024, la gara più bella della vostra vita, qualunque essa sia, in qualsiasi categoria e in qualsiasi età. Quella che sto per raccontarvi è la storia e della gara di Giampaolo. Siamo fermi alla partenza, siamo in tanti, quasi 500. Una macchia di colore costretta a compattarsi in attesa del diluirsi nel verde del prato. Una grande famiglia, facce sorridenti, qualcuno un po' assonnata. Un vociare di reciproco supporto e incitazione che ti sostiene e ti trasmette sicurezza. Ma questo sentimento di appartenenza è effimero, dura solo il tempo di un countdown. Al segnale di inizio gara, il gruppo si scompatta, si sfilaccia lungo le prime linee obbligate del tracciato. Davide è già avanti e cerca da subito di guadagnare posizioni. Francesco è poco dietro. Lasciato il morbido pratone, aumenta il fragore delle ruote che cercano la migliore traiettoria tra i sassi dello sterrato. Poche centinaia di metri e subito percepisco che qualcosa è cambiato. Sale la frequenza del cuore che mi sembra già in affanno alla prima salita. Salgono i richiami e le imprecazioni dei più esagitati che reclamano qualche centimetro di spazio per superarmi a destra e a sinistra. Ma soprattutto sale la consapevolezza che, anche se con quasi 500 compagni di viaggio, sono lì solo con le mie forze e un'unica certezza, 27 chilometri all'arrivo. Frena, frena! Davanti a me un serpentone colorato che si snocciola nel bosco fino al corso d'acqua giù in basso, il guado dell'Olona. Siamo fermi, si procede a piedi in fila indiana. Recupero un po' di forze e inizio a sgranocchiare una barretta. C'è il tempo e il modo di scambiare due chiacchiere con i compari di fila. Così la gara ritrova una dimensione più familiare, come nelle uscite domenicali, dove ci si ferma spesso per riposarsi, chiacchierare un po' e aspettare chi si era attardato. Il tempo per un paio di consigli su come affrontare il guado e il ripido cambio di pendenza che ne segue e poi via, sono di nuovo in sella. Il contachilometri finalmente va in doppia cifra, la prima decina è andata. Sbuchiamo su una strada acciottolata, non più lo stretto sentiero nel bosco, ma una bella larga assolata strada bianca, ma terribilmente ripida. Il cambio di pendenza si fa sentire, siamo tutti un po' sparpagliati sulla carrozzabile, zigzagando un po' a destra, un po' a sinistra, per cercare di imbrogliare la salita. La Martica! È la Martica! Mi incalza un ragazzino piuttosto esile. Da qui sono 3 chilometri di dura salita. La Martica. L'unico neurone che non è impegnato ad arretta i muscoli e che è rimasto a guardia delle mie funzioni intellettive mi ricorda che la Martica è il nome della cima a cui siamo diretti. Non ho le forze per replicare, me la cavo con la smorfia di un sorriso. In salita riesco a recuperare posizioni e con queste anche un po' di morale. Ok, sono in cima e ora la parte più critica del percorso. Giù a picco nel bosco, dove delle maledettissime radici tagliano più o meno perpendicolarmente il sentiero. Fate attenzione, è il consiglio degli addetti alla gara. In effetti qualcuno si ribalta, ma prontamente si rialza, niente di grave, solo la forza di gravità che fa sentire le sue ragioni. A seguire il percorso inizia a prendere un profilo meno verticale. Questo è forse il tratto più bello. Ti puoi lasciare andare in velocità, trovo anche un paio di salti di quelli giusti. La fatica prima di lasciarmi lascia spazio al puro divertimento. Accidenti, mi accorgo però che non capisco dove sono. Ho paura di non essere sul sentiero giusto. Mica avrò sbagliato strada. Continuo a scendere e mi guardo indietro. Non c'è ruota che gira. E poi finalmente vedo una bindella KTM che segna il percorso. È giusto, vado. Poi vedo qualcosa laggiù, cosa succede? Ci sono delle persone in mezzo al sentiero. No, non dirmi che... E invece sì. Fine della discesa. Curva gomito a sinistra e di nuovo ripida salita. Dai, dai, dai che ce la fai! Ecco di nuovo quell'incitamento che, anche se stavolta è anonimo, mi dà una mano, o meglio, una gamba per affrontare la nuova salita. Il contachilometri segna 20 chilometri, adesso la fatica si fa sentire davvero, e anche la minima salita diventa una sofferenza. Non voglio perdere tempo, ma ho bisogno di bere per recuperare forze. Rallento un po'. Anche questa gara ha i suoi cicli. E così, come subito dopo la partenza, anche ora, quando potrebbe mancare poco all'arrivo, riaffiorano in me i demoni della disperazione. Questi li sento molto più fisici e pesanti dei primi, e subito realizzo che ho molte poche speranze di togliermeli di dosso. Ma ecco un angelo, che con le sembianze di giovane donna facendo finta di cazzeggiare con uno smartphone a bordo pista mi grida: «Sei all'ultimo chilometro! È tutta discesa!» Ed ecco, per la legge del contrappasso, come tante volte ho mentito io a moglie e figlie incitandole all'ultimo tratto di salita alla vetta in montagna, così quell'entità quasi umana ha cercato di sollevarmi dal peso di quest'ultimo tratto di gara, facendomi credere di essere quasi all'arrivo. E invece, dopo l'ennesima, dannata e quasi interminabile serpentina, eccomi fuori dal bosco, e davanti a me di nuovo il prato verde della partenza. All'ultima curva, a pochi metri dal gonfiabile che segna la fine del percorso, la voce di Davide mi conferma la fine di questa travagliata esperienza. Più che soddisfatti dall'avventura, mentre cerchiamo di riequilibrare le risorse idriche, ingurgitando qualche mezzo litro di tè, ci scambiamo a caldo le impressioni sul percorso. Tra le tante c'è questa che dice: «Eh sì, se l'avessimo fatta almeno una volta, conoscendo il percorso, si poteva dare di più». Della botte a Vittorio Veneto in provincia di Treviso, si correva spingendo una botte di 100 kg per un percorso di 1,5 km, ci abbiamo messo 6 minuti e abbiamo vinto. Saluti da Gianluca, 80024 0024 per chiamare e raccontare la gara della vostra vita. Non serve che l'abbiate vinta, serve semplicemente che in qualche modo vi sia rimasta nel cuore. Sono 16:21 minuti, questa era di 24, io sono Matteo Caccia, continuiamo a raccontare storie, lo faremo fino a fine luglio e noi siamo qui e insieme a noi c'è anche Massimo da Varese. Pronto Massimo? Sì, ciao Matteo. Ciao, come stai? Ciao, bene, tu? Complimenti per la trasmissione, ti ascolto sempre. Sei il migliore di tutti, Massimo. Grazie. Lasciatelo dire. Grazie, cosa fai nella vita, Massimo? Niente, io ho un'azienda che produce prodotti lavamani per uso professionale, quelli, sai, classici, per meccanici. Tipo la pasta, sì. La pasta per bravo, le mani. Bravo, no, quella roba lì mi fa impazzire. Quella. Ma come fa a lavare le mani quella roba? Cioè, te le gratta via in realtà? No, quella che fa degli altri, sì, che fanno gli altri sicuramente sì. La, la mia è un buon prodotto che abbina un'azione meccanica dell'abrasivo che è contenuto a un'azione chimica dei tensioattivi che ci sono nel prodotto. No, già ti adoro, Massimo, però non è questa la gara che hai vinto tu. la gara della tua vita, scusami, non la gara della mia vita è stata il Catalgran Trail della Valdigni, che è una corsa in montagna di 100 km con circa 11.000 metri di dislivello positivo o negativo, che sono riuscito a concludere con un mio carissimo amico dall'inizio alla fine e niente. Quanto ci hai messo? Io ci ho messo 20 ore e mezza. 20 ore e mezza senza mai fermarti? No, beh, ci sono alcune pause durante la corsa per il ristoro, per rifocillarsi, okay. Così, però fondamentalmente sì, è senza mai fermarsi. Massimo, tu da Varese vieni domani al live? No, sinceramente no, perché è un impegno di lavoro. Domani però mi sarebbe molto piaciuto. Vabbè, allora alla prossima. Grazie mille, grazie, Massimo. Grazie, ciao, buona giornata. Andiamo a Mantova, da Paolo. Pronto, Paolo? Pronto te, Massimo. Ciao, Massimo? No, sono Paolo, ciao. Ah, ok, io sono Andrea, Matteo. Matteo, intanto complimenti, sono un po' emozionato, ma... Tranquillo. Io faccio il venditore di automobili, sì? Io sono in macchina spesso e ti ascolto se la trasmissione è veramente molto, molto bella. Ok, ti ringrazio molto. Prego, ci manca. Tu, qual è stata la gara della tua vita, Paolo? La gara della mia vita è stata questa qua, i venditori Alfa Romeo, io ero un venditore Alfa Romeo, tutti gli anni hanno conquest da fare. E all'interno di questo conquest i migliori 50 vincono un viaggio, noi siamo andati in pista a Varano, sì? E con delle Brera 3002 abbiamo fatto 3 giri in telemetria con queste vetture, con in fianco chiaramente un pilota professionista che ci faceva da aiuto, da navigare, sì? E io ho messo i 50 miei colleghi, li ho messi tutti in fila, sono arrivato primo. Che macchine erano? Alfa Romeo, abbiamo capito. Erano delle Alfa Romeo Brera 3002 benzina 6 cilindri. Beh, è già una roba da grossi. Paolo, grazie mille, in bocca al lupo. Grazie anche a te. Ciao, a presto. Per la trasmissione. Grazie. Ciao. Maurizio intanto scrive: la gara della mia vita è stata una cuccagna a Gagliate. Gagliate è un paese vicino al mio paese. La cuccagna esiste dappertutto, no? L'albero della cuccagna, quello che ti arrampichi. Stiamo a Milano da Franco 5. Pronto, Franco? Ciao. Ciao, mi senti? Io ti sento benissimo. Tu mi senti? Benissimo. Fantastico. Bene, ascolta. Dimmi, Franco. Sono gli anni 70. Perfetto. Entriamo subito in media stress. Allora, negli anni 70 l'atletica andava forte in Italia, okay. Erano gli anni dei giochi della gioventù, delle campestri, sì, erano gli ricordo. Anni in cui all'arena si correva la Pasqua dell'atleta che riempiva gli spalti in primavera. Ed è già epico, Franco. Ed è già epico, perfetto. E io ero uno di quelli che correva l'arena a 19 anni. Ricordiamo, per chi è fuori di Milano, l'arena è l'ex stadio di Milano, insomma, l'arena di Milano, poi un posto ancora, magnifico. Vabbè. A quel punto sì. Io correvo i 400 metri, okay. Non ero un gran campione, però ho deciso a un certo punto di dire: ma io devo fare qualcosa per lasciare un mio segno all'arena dove hanno fatto titoli mondiali più grandi. E che cosa hai fatto, Franco? Semplice. Quando mi hanno chiamato per la gara, sì. Mi sono tolto le scarpette chiodate, le calze, e ho fatto la corsa dei 400 a piedi scalzi. Come un kenyota qualunque, Franco. Sì, solo che mai nessuno più l'ha rifatto. E così mi è rimasto nel mio, credo, 54 e qualcosa, quindi un tempo molto sì. Lungo. La pista non era in terra, era già in rupco, era una pista di quelle morbide, sì, e gommose. Sì. Non è rimasto questo grande, e tutti quelli che mi rivedono, perché io non faccio più atletica ma lavoro nell'ambiente dello sport, si ricordano di te. Mi ricordo di me come l'unico che ha corso a piedi nudi all'arena, i 400 metri a piedi scalzi nell'arena. Franco, grazie mille per questa immagine splendida. Buona giornata. Ciao, buona grazie. Giornata, ciao. Io chiedo scusa, mi scrivono al 349-238-6666. Matteo, si dice Martica e non Martica. Avete ragione anche voi, però sapete che cosa succede. La gara della botta Vittorio Veneto l'ho letto. Audax 500 km delle Marche in Vespa in 12 ore. Gara di regolarità. Ultima disputata nel 2012. Foratura e rottura dell'impianto elettrico. Arrivato regolare. Diego, non ho capito niente di questo messaggio se non 12 ore. Ho capito che ci hai messo 12 ore. Ultima telefonata velocissima, Pierluigi da Milano. Pronto, Pierluigi? Sì, pronto, ciao Matteo. Ciao, senti, non ho tantissimo tempo, ma dimmi la gara della tua vita. Ah, sempre in tema di moto, sì? Nel 2005 in Romania io correvo, facevo enduro, una via di mezzo fra il cross guidato, sì? Con una moto presa di seconda mano un po' arrangiata, e mi ricordo che quella gara lì era il Carpatarelli, una 4 giorni, l'affrontavo con lo spirito di vedermi alla Romania fondamentalmente, certo, certo. E mangiare qualcosa di buono, che poi non è che c'era molto. E invece l'hai vinta, no? No, non ho assolutamente vinta, però una giornata arrivai dietro a un tizio che andava come un disperato, però io, sì, dicevo, io ci voglio provare, e alla fine per me era la prima volta che facevo una cosa di questo tipo, cioè così impegnata, anche scritto, la pettorina e tutto, okay. Era un padre lì che poi arrivai in fondo e gli dissi, guarda che tu sei andato veramente forte, dice, ma io sono il campione regionale della Liguria, e tu chi sei? Ha detto, io non sono nessuno, però sono arrivato dietro di te, per me è stata una roba... Cioè, che moto avevi per Luigi? Che moto avevi? Un XR400, non pesantissimo. Ma grandissimo, guarda, io sto cercando un XR600 del 90, ne ho trovata una ma chiedono ancora troppo, e a breve me la comprerò. Grazie Pierluigi, ciao, okay, in bocca al lupo. Grazie, l'ultima telefonata, facciamo in tempo, Giuseppe da Torino, Giuseppe al volo. Ciao. Io ero un ragazzo di 15-16 anni, ero un gran palleggiatore, non è un giocatore di pallone ma un palleggiatore, sì, sì. E giocavo contro 7-8 ragazzi, le davo 49 punti avanti, con la partita 50, loro ne facevano 18, 10, 15 per uno, arrivavano circa 90, io attaccavo 150, 200 e vincevo sempre anche contro 10 bambini. Ma che, Giuseppe, perdonami, ho capito nulla, che sport esattamente? A palleggiare. Ok, Giuseppe era un grandissimo palleggiatore, un po' come gli italiani ieri. Grazie ancora, in bocca al lupo. Ciao. Grazie. Ciao Giuseppe. Ciao. Abbiamo finito, leggo l'ultimo messaggio. Matteo, me lo trovi il fidanzato domani al live? Inventati qualcosa, baci Giorgia. Giorgia, tu arriva 5 minuti prima, fatti riconoscere, qualcosa ce lo inventiamo. Il live di domani è sold out, ma noi saremo qua alle 9 in punto. Ieri ho ripetuto per 7 volte le 21.30, chiedo scusa, le 21 in punto. Noi e Mauro Ottolini per la festa finale di domani. Grazie a Paolino Corleone, Tiziano Bonini, grazie a Margherita Aina, ovviamente, grazie a Giampaolo, la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa e ce l'abbiamo fatta.